Qui non c'è niente. Avventurieri, la vostra risposta era sbagliata. Dovete controllare uno per uno gli altri angoli. L'esplorazione richiede tempo prezioso e molta fatica. Per questo perdete 2 punti energia ciascuno.